Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Sono germogli di ripresa, secondo il centro studi di Confindustria. Epifania al governo, si completino le riforme avviate da Prodi. A Roma, 4 casi di influenza fra gli studenti, 2 scuole verso la chiusura. Abbattuto lo scheletrone, oltre 600 kg di tritolo per tirare giù l'ecomostro dell'isola Palmaria davanti a Porto Venere. Riforma del Parlamento, Fini replica Berlusconi, si faccia pure un disegno di legge di iniziativa popolare, ma deve passare dalle Camere. La trattativa di Fiat per Opel, il premier della regione tedesca dell'Assia preferisce l'offerta di Magna. Appassionata di Star Trek, curriculum impeccabile, fra poco l'intervista alla prima astronauta italiana. Calcio verso la penultima di campionato, potrebbe arrivare il verdetto per Bologna e Torino. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. E una buona giornata da Simone Spezia. Andiamo subito a Roma per il congresso della CISL che si sta svolgendo in queste ore. Oggi a parlare sono stati il leader della CGIL Guglielmo Epifani e il ministro del welfare Maurizio Sacconi. Tutto questo il giorno dopo l'assemblea di Confindustria, nella quale la presidente degli industriali Emma Marcegaglia ha chiesto al governo riforme per battere la crisi. Ci racconta tutto in diretta da Roma Paola Cavadi. Paola. Sì, buongiorno. Giornata conclusiva del congresso della CISL a Roma. Oggi, come avete detto, della CISL, i segretari generali di CGIL UIL Epifani Angeletti e il ministro del welfare Sacconi. Al centro del dibattito la crisi economica, i suoi effetti e il ruolo del sindacato. Al governo il segretario della CGIL Epifani rivolge una dura critica. Non raccontiamoci balle, ha detto. Per la crisi sono stati messi 2 o 3 miliardi al massimo, il resto sono di partite di giro. Il governo in sostanza non ha fatto abbastanza per chi sta peggio, ma sentiamo le parole di Epifani. No, la coesione sociale, questa è una crisi che allontana la condizione delle persone. Chi va in casa integrazione sta peggio di come stava un anno fa. Un precario che ha perso il lavoro pure, una persona anziana che non ce la fa sta peggio. Chi mantiene il suo reddito riesce a attraversare la crisi. Quindi ci vuole una politica che sia attenta a coloro che stanno peggio. Questo io è quello che io critico nell'azione del governo. Aver fatto troppo poco per coloro che stanno peggio in questa crisi. Il segretario della CGIL fa un tentativo di ricucire lo strappo con CISL e UIL dopo la firma dell'accordo separato sui contratti. Abbiamo fallito tutti, ha detto il segretario della CGIL, dobbiamo assumercene la responsabilità. Quindi ripartiamo, questa è la proposta unitaria sui salari che miri a proteggerli dal peso del fisco. Anche sulle pensioni dal segretario della CGIL fa un'apertura, anche se con dei paletti, sia all'idea di pensioni di vecchiaia flessibili in uscita, ma aggiunge Epifani, non dimentichiamoci il nodo dei lavori usuranti lasciato in sospeso dal governo Prodi. Altro tema, la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Che arrivano le parole del ministro del welfare. Paola, ti ringraziamo per la corrispondenza che mi sembra che fosse esaurita. Abbiamo dei problemi di collegamento e noi continuiamo a parlare di economia e di crisi con i dati del centro studi di Confindustria. Sì, dati che sono stati diffusi questa mattina. Diamo subito il buongiorno a Luca Paolazzi, direttore del centro studi. Buongiorno a tutti. Allora, questi dati che riguardano l'occupazione, il mercato del lavoro innanzitutto, che cosa emerge? È fondamentalmente il fatto che la cassa integrazione è salita nei primi 4 mesi di quest'anno ai livelli che erano stati toccati durante la precedente crisi, quella del 93. Anzi, se guardiamo il dato di aprile e lo rapportiamo in ragione d'anno, abbiamo un livello superiore a quello raggiunto allora, però non è ovviamente questo l'elemento principale della nostra analisi, anche perché ricordiamolo sempre, il mercato del lavoro non riflette la situazione presente dell'economia, riflette quella precedente, perché ci vuole sempre del tempo prima che le svolte nel sistema economico cadano poi sul mercato del lavoro. Le imprese tendono a non cambiare la struttura del personale, la manodopera finché possono, e poi dopodiché ci mettono del tempo a ricominciare ad assumere proprio perché vogliono essere sicuri che la ripresa ci sia. Quindi a me pare che il tratto principale della nostra analisi sia che da un lato la crisi è molto più profonda di quello che si immaginava o si pensava, e questo significa che abbiamo avuto una caduta di livelli di attività elevati, e ciò mette in sofferenza ovviamente imprese, soprattutto quelle di alcuni settori. Dall'altro lato però ci sono appunto tanti segnali di miglioramento. Ecco, quali sono questi segnali che voi chiamate con un'espressione, devo dire, suggestiva, germogli di ripresa? Beh, è la traduzione di quello che gli anglosassoni chiamano da un po' di tempo green shoots, cioè germogli appunto. Guardiamo innanzitutto l'estremo oriente, la Cina è tornata a crescere, gli ultimi dati confermano il fatto che è in solido terreno espansivo il settore manifatturiero cinese, in America vediamo segni di stabilizzazione perfino nel mercato immobiliare, in Europa il dato che è uscito anche ieri per quanto riguarda l'area euro di una forte, diciamo, riduzione del tasso di contrazione dell'attività con prospettive di miglioramento. La produzione industriale giapponese è attesa aumentare del 12% tra marzo e maggio. Insomma, ci sono tutta una serie di indicatori di un rimbalzo da questi livelli depressi di cui parlavo prima. Senta Paolazzi, un po' brevemente perché purtroppo non abbiamo molto tempo. Questa mattina l'Istat ha diffuso i dati sulle vendite al dettaglio che sono in calo del 5,2% su base annua, uno dei dati peggiori dell'ultimo anno, però su base mensile sono cresciute dello 0,1%. Anche questo è un germoglio di ripresa? Sì, perché teniamo sempre in considerazione il fatto che le variazioni su, diciamo, lo stesso mese dell'anno precedente da un lato riflettono quello che successe in quel singolo mese, e in quel singolo mese parliamo di un fenomeno eccezionale come la Pasqua che cade a marzo, normalmente la Pasqua è ad aprile e questo falsa tutti i confronti. E in secondo luogo i confronti su base annua riflettono la storia di 12 mesi, ma non ci dicono mai se la congiuntura sta cambiando oppure no, quindi ritengo molto più interessante il fatto che ci sia stato un aumento su base mensile. E grazie a Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria, per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata a tutti. E su questo dato delle vendite al dettaglio è intervenuto questa mattina il presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli. È un dato che, se viene preso asetticamente, può certamente preoccupare, però è un dato che io non leggo in termini drammatici, perché è un dato che non è depurato dall'effetto Pasqua, in quanto la Pasqua è stata celebrata dopo. Insomma, io penso di poter rispondere così, che secondo noi il peggio è certamente passato e ci auguriamo che quanto prima arrivi il meglio. Questo era appunto Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio. Adesso passiamo alla cronaca con una notizia di questa mattina che arriva da Roma. Arriva da Roma, dove si prospetta addirittura la chiusura di due scuole perché c'è stato il contagio della cosiddetta nuova influenza, insomma l'influenza A, per 4 studenti dei licei. Adriana Fracchia, che sta succedendo? Sì, buongiorno. Sono stati appunto confermati 4 casi della cosiddetta nuova influenza che riguardano 4 studenti di 2 scuole di Roma, il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II e il Liceo Classico Dante Alighieri, che dovranno ora rimanere chiusi in via preventiva per una settimana. La misura è stata disposta dal Vice Ministro della Salute Ferruccio Fazio, anche se abbiamo potuto verificare telefonando questa mattina che entrambi i 2 istituti scolastici non avevano ancora ricevuto comunicazioni ufficiali dal Ministero, non erano dunque ancora chiusi. Stiamo adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare possibili rischi per i ragazzi, è necessario agire con la massima tempestività, serve che tutte le strutture scolastiche siano attentamente monitorate, ha affermato intanto in una nota il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Maria Stella Germini. I 4 studenti che hanno contratto il virus influenzale hanno manifestato i primi sintomi al loro rientro il 19 maggio scorso da un viaggio di studio a New York e facevano parte di un gruppo di circa altri 400 studenti per i quali ora andranno fatti i necessari controlli sanitari. Ma quanto sono necessarie queste misure cautelative? Lo abbiamo chiesto all'epidemiologo dell'Istituto Superiore di Sanità, Gianni Rezza. Ma io direi che a livello precauzionale è necessario e doveroso, perché fino ad ora si sta facendo con una certa efficienza a livello europeo un'azione di contenimento dell'infezione, perché è vero che questa influenza non sembra essere diversa da altri, cioè questo virus non sembra essere più virulento, ma è pur vero che anche un'influenza normale, quando fa dopo magari milioni di casi, fa anche un certo numero purtroppo di casi gravi e di morti, per esempio le persone con patologie croniche sono delle persone a rischio. Non avendo ancora un vaccino disponibile, allora si fa in modo da tentare di arginare questi focolai sul nascere. E Rezza ha ricordato che a scopo preventivo nelle settimane scorse le scuole sono state chiuse oltre che in Messico, negli Stati Uniti, a New York, in Texas e in California, ma anche in Giappone e nel Regno Unito. E grazie ad Adriana Fracchia per questi aggiornamenti. In chiusura di questa parte sentiamo dove ci porta il nostro gastronauta per il fine settimana, in realtà a pochi chilometri da Torino. Per una serata davvero regale, il mio consiglio vi porta alla Reggia di Venaria, dove recentemente al secondo piano del Torrione è stato aperto un ristorante, il Dolce Stil Novo alla Reggia. Un bellissimo locale, davvero straordinario, con una vista sulla Reggia incredibile, irrepetibile, e dentro un grande ristorante con una serie di menù davvero regali, preparati da Alfredo Russo, uno chef che appunto da pochi mesi si è trasferito qui, e qui si possono mangiare i suoi piatti classici, a cominciare dalla lingua di fassone con salsa verde, il vitello tonnato in scatola, la pasta in bianco olio e parmigiano, e poi potrei continuare ancora, ma io vi lascio la sorpresa, perché appunto la carta è vastissima, una grande carta dei vini, uno straordinario servizio, una grande ospitalità. Lo ripeto, Dolce Stil Novo alla Reggia, Piazza della Repubblica 4 a Venaria. Le 13:17 minuti, 5 secondi, nella prima parte del GR Extra Large abbiamo parlato del congresso della CISL che si chiude oggi e nel quale ha parlato il leader della CGIL Guglielmo Epifani e il ministro del welfare Maurizio Sacconi. Abbiamo parlato del Centro Studi di Confindustria che parla di germogli di ripresa nella sua ultima congiuntura flash. Abbiamo parlato dei casi di influenza A a Roma, 4 tra gli studenti e 2 scuole che stanno andando verso la chiusura. Adesso ci occupiamo di politica. E sì, perché va ancora avanti il botta e risposta a distanza fra Berlusconi e il presidente della Camera Fini sulla necessità di cambiare la distribuzione dei poteri nello Stato. Insomma, ieri, lo ricordiamo, il premier aveva nuovamente detto che il presidente del Consiglio ha in sostanza poca libertà di manovra, pochi poteri. E aveva aggiunto che forse il Parlamento ne ha troppi, definendolo un'assemblea pletorica. Ci racconta tutto in diretta da Montecitorio Vincenzo Miglietta, perché c'è una nuova replica di Fini, a quanto pare, Vincenzo. È così, giudici e ruolo del Parlamento, la polemica politica si anima intorno a questi due temi. Ad alzare i toni, lo ricordiamo, è stato ieri il Presidente del Consiglio Berlusconi. Sulla giustizia ha detto alcuni PM sono pericolosi, sulle Camere ha aggiunto sono inutili 630 deputati, da qui la promessa del Premier di intervenire in tempi rapidi per la divisione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici e di pensare alla semplificazione parlamentare. Il primo a rispondere al Premier ieri come oggi è il Presidente della Camera Fini. Il Parlamento, spiega, può anche essere considerato pletorico, ma non può essere in nessun caso definito dannoso o inutile. Fini aggiunge poi che indipendentemente dalle iniziative legislative, anche quelle popolari, è comunque il Parlamento ad avere l'ultima parola. È auspicabile inoltre per Fini raggiungere delle intese di interesse generale come quelle che si ottennero con la Costituente. Sul tema interviene oggi anche il leader del PD Franceschini, che pensa ad una politica rinnovata che sappia affrontare i problemi cari alla gente invece di parlare solo di se stessa. Il capitolo giustizia poi è il caso Mills. Berlusconi venga in Parlamento e dica che rinuncia al lodo Alfano, commenta ancora Franceschini. Berlusconi fa bene a proporre queste riforme, ribatte dal Popolo della Libertà Capezzone. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, noi continuiamo a parlare di politica perché Marco Pannella sembra deciso ad andare avanti nello sciopero della fame e della sete che è iniziato per protestare contro quello che definisce mancato rispetto della par condicio in vista delle elezioni europee. Pensavo di sognare e avere un incubo di stare a tele Berlusconi, perché la cosa è sempre questa, ci si fa vedere quello, mamma mia quanto è brutto, Dio santo, quante cazzate! Combattivo come al solito, anche se molto provato dopo 7 giorni di sciopero della sete, Marco Pannella è apparso così ieri sera negli studi di Anno Zero. Un invito, quello ricevuto dalla trasmissione di Michele Santoro, arrivato dopo una settimana di protesta contro la censura che, secondo Pannella, l'informazione sta operando nei confronti delle liste dei radicali alle europee. Ieri pomeriggio Pannella aveva interrotto lo sciopero della sete bevendo un succo di frutta solo dopo i molti appelli in suo favore, a partire da quelli del Presidente della Repubblica Napolitano e del Presidente della Camera Fini. Anche Sergio Zavoli, Presidente della Commissione di Vigilanza, aveva minacciato le dimissioni se il leader radicale non fosse stato invitato dalla TV pubblica. L'invito alla fine è arrivato da Michele Santoro, ma di fronte all'attenzione che ancora una volta Pannella è riuscito a catalizzare attorno a sé, i vertici della RAI hanno subito fatto sapere che dopo Anno Zero sono state date indicazioni per assicurare la sua presenza anche in altri programmi RAI. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Dalla politica italiana alla politica tedesca, per una questione che però ci riguarda da vicino, perché il governo di Berlino incontra oggi i governatori delle regioni interessate per discutere i piani per l'acquisizione della Opel. Ricordiamo che i piani presentati al momento sono 3: quello di Fiat, quello del gruppo austro-canadese Magna e quello del fondo di private equity Ripplewood. Questa mattina il portavoce del governo tedesco ha detto: al momento non ci sono favoriti per la corsa ad Opel, l'esecutivo si prenderà tutto il tempo di cui ha bisogno. Beda Romano, in diretta da Francoforte, quale potrebbe essere la tempistica e i possibili esiti di questa riunione? No, prima di tutto la riunione non è ancora certo che avrà luogo. Il portavoce del governo è rimasto molto ambiguo oggi, rispondendo alle domande dei giornalisti, forse soltanto per cercare di smorzare l'attenzione su questo aspetto. Il governo in questa fase vuole cercare di capire due cose delle 3 offerte che sono state presentate per Opel. E le due cose sono, prima di tutto, la solidità industriale della proposta e poi quanto verrebbe a costare per le tasche dei contribuenti tedeschi l'eventuale offerta più interessante da un punto di vista industriale. Questi sono i due aspetti che il governo vuole mettere a punto. Inizierà a farlo molto probabilmente oggi, anche se, come dicevo prima, il portavoce è stato ambiguo. Difficile dire la tempistica, anche perché dipenderà molto dal fronte americano. È General Motors poi che dovrà prendere una decisione definitiva sul progetto vincente. Sappiamo che General Motors vuole prendere una decisione entro la fine del mese. Il governo è anch'esso abbastanza desideroso di trovare una soluzione rapidamente, quindi direi che nelle prossime giornate, da qui alla fine della settimana prossima, ne sapremo di più. E grazie Beda Romano per questa corrispondenza a Francoforte, per averci chiarito insomma tempi e modi della vicenda. Tra l'altro, Alessandra, i giornali tedeschi ci stanno ossessionando con una serie di indiscrezioni su questa vicenda. Ovviamente insomma parlano di un'industria che è fondamentale insomma nella loro economia. Giulia Crivelli, allora, in che modo ne parlano i quotidiani tedeschi? Buongiorno a tutti, come dite voi, ci sono molte indiscrezioni, la Bild si è di nuovo scatenata ieri, però soprattutto, a parte la Bild, che sappiamo è così un quotidiano popolare che a volte ha dei toni più magari esagerati, c'è lo Spiegel, che invece è forse il più autorevole settimanale tedesco. Già l'edizione online di ieri, oggi viene ripetita questa cosa, è ripresa da molti giornali, parlava di un documento riservato in cui Fiat sarebbe soltanto al terzo posto. È tutto da verificare, c'è la Welt per esempio che titola 3 salvatori per Opel e tra questi non indica una posizione particolare per la Fiat, la Frankfurter Allgemeine Zeitung fa più un'analisi approfondita e poi ci sono un paio di articoli che ancora una volta tornano su questo possibile culture clash, come chiamano gli americani, cioè questo scontro di culture tra quella italiana e quella tedesca, che sono ovviamente molto diverse da molti punti di vista, e cita il famoso proverbio: i tedeschi amano gli italiani ma non li rispettano, e invece gli italiani rispettano i tedeschi ma non li amano. Però insomma è poi da vedere, perché in realtà Marchionne è un personaggio così internazionale che credo che a decidere saranno ben altre cose che non appunto delle definizioni molto sbrigative come questa. Giulia, vogliamo far prendere al nostro gruppo editoriale una bella soddisfazione? Sì, sono molto felice oggi di sulla prima pagina del Wall Street Journal Europe c'è questo articolo intitolato Versace CEO expected to resign. È naturalmente Giancarlo Di Risio che probabilmente lascerà la Versace dopo aver di fatto concluso un turnaround quasi miracoloso. Questa però è una notizia che il Wall Street Journal ce l'ha oggi sulla prima pagina, il Sole 24 Ore ce l'aveva due giorni fa sulla prima pagina grazie a Paola Bottelli che è la nostra collega che ha fatto questo scoop e appunto l'abbiamo data per primi. Versace naturalmente è un'azienda che è conosciuta in tutto il mondo, tant'è che appunto è sulla prima pagina del Wall Street Journal. Giulia, rapidamente l'Economist. E l'Economist invece ha un approfondimento sulle elezioni indiane, c'è il titolo Good News from India, c'è una bellissima signorina indiana vestita con un costume tradizionale rosso e che parla al telefono cellulare come segno naturalmente di modernità e il sottotitolo, poi c'è un approfondimento all'interno naturalmente, è il significato della più grande elezione al mondo, infatti mai così tante persone, potrebbe esserci la Cina naturalmente, ma i cinesi non vanno a votare, in India invece l'India è una democrazia compiuta, è stata la più grande elezione, hanno dato prova di poterla gestire e poi anche i risultati che sono usciti dalle urne, quindi l'Economist per una volta tanto sembra quasi ottimista, che cerca, loro sono sempre così freddi e rigorosi che sembra sempre che tutto vada, poi gli entusiasmi vadano sempre smorzati, forse non in questo caso. Giulia, grazie anche per oggi. Dai quotidiani passiamo ai libri, Alessandra. Sì, molti lo conoscono come autore di Striscia la Notizia, ma soprattutto come voce del Gabibbo. Ma lui, Lorenzo Beccati, è anche un ottimo giallista e quindi è del suo ultimo libro che vi parlo oggi. È il terzo thriller che ha come protagonista Pima, il cosiddetto guaritore di maiali. Anche in questo caso si tratta di un giallo storico ambientato a Genova nel 1590. Si intitola L'uccisore di sete ed è pubblicato da Kowalski. Ma è lo stesso Lorenzo Beccati a raccontarci di cosa si parla. Stavolta due misteri ben distinti da svelare. Da una parte c'è una creatura oscura che uccide uno dopo l'altro i tessitori in un posto dove sono reclusi in un certo senso per via della peste. E questa creatura è un uomo, un demone, insomma, lo scoprirà forse Pimain. D'altra parte invece c'è un mistero che coinvolge lo stesso Doge. Alcune persone care, veramente care a lui, spariscono, c'è un assassinio e Pimain è incaricato di trovare queste persone e di risolvere anche questo mistero. Ma questa è l'ultima puntata di questa trilogia con Pimain o hai intenzione di andare ancora avanti? Per ora finisce qui, anche se devo dire che ho già ricevuto email, telefonate, parenti che mi chiedono no, non può morire, non può finire qui, deve andare avanti. Per il momento sicuramente c'è una pausa perché come ogni scrittore anch'io ho delle idee che mi frullano per la testa, insistenti, e c'è qualcuno che spinge più forte in questo momento di Pimain, per cui racconterò altre storie. Un'anticipazione, chi è che spinge così più forte? In questo caso è una donna e ho intenzione di fare una investigatrice, per così dire, una indagatrice. Il periodo è sempre lo stesso, intorno alla fine del Cinquecento, però una donna che investigava ai tempi, che mostrava intelligenza, acume, eccetera, non credo che potesse mai esistere. Allora si nasconde dietro a una bacchetta di rabdomante. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Ci sono germogli di ripresa, dice il centro studi di Confindustria. Epifani al governo, si completino le riforme avviate da Prodi. A Roma, 4 casi di influenza fra gli studenti, 2 licei verso la chiusura. Abbattuto lo scheletrone, oltre 600 kg di tritolo per tirare giù l'ecomostro dell'isola Palmaria davanti a Porto Venere. Riforma del Parlamento, fini a Berlusconi, si faccia pure un disegno di legge di iniziativa popolare ma deve passare dalle Camere. La trattativa di Fiat per Opel, il premier della regione tedesca dell'Asia preferisce l'offerta di Magna. Notizia di poco fa, la nave maestrale della Marina Italiana ha sventato un attacco dei pirati nel Golfo di Aden. Appassionata di Star Trek, curriculum impeccabile, tra poco l'intervista alla prima astronauta italiana. Che state sentendo il rumore che hanno fatto 600 kg di tritolo, quelli che sono serviti per tirare giù un ecomostro in Liguria. Ingessato dai sequestri e sballottato tra le carte bollate per quasi 40 anni, lo scheletrone dell'isola Palmari ha resistito, deturpando uno degli angoli più suggestivi della nostra costa. Stamane, in un attimo, si è afflosciato come un castello di carte per effetto delle 672 cariche di nitroglicerina piazzate lungo i 7 piani degradanti sul mare. Una nuvola di polvere tra gli applausi e le sirene delle barche. Emblema della cementificazione selvaggia, l'ecomostro avrebbe dovuto ospitare un albergo e un residence con piscina affacciati sul millenario borgo di Porto Venere. Venere. Nel 1968 le autorizzazioni furono concesse, ma prima che il complesso prendesse forma un pretore bloccò i lavori. Restò così lo scheletrone, 7 piani, migliaia di metri cubi di cemento. Seguirono sequestri, dissequestri, polemiche, ricorsi ed ipotesi sul futuro del fantasma di cemento. Più recentemente la decisione di annientarlo per sempre, ma con quali quattrini? Alla fine Regione Liguria e Ministero dei Beni Culturali li hanno trovati, 2 milioni di euro. Stamane il mostro ha esalato l'ultimo respiro. Andrea Ferro, GR24, Sole 24 Ore, Genova. Parliamo di questo fine settimana di caldo, un fine settimana che si prospetta bollente. Che le temperature di questi ultimi giorni, specie a Roma e Perugia, siano al di sopra della media del periodo non è certo un'invenzione. Domani in alcune città si supereranno addirittura i 30 gradi. Ma si tratta davvero di un record o ad alzare la temperatura contribuisce la nostra tendenza a reagire al primo caldo agitando lo spauracchio di un termometro impazzito? Guido Guidi, tenente colonnello del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica. Innanzitutto non si tratta di un record, nel senso che situazioni con queste temperature sono tutt'altro che infrequenti nel mese di maggio. Quello che ci attende nel brevissimo futuro è ancora una persistenza di questa stabilità per qualche giorno, direi una metà circa della prossima settimana ancora, e poi dovrebbe arrivare una diminuzione anche abbastanza consistente delle temperature. Nessun allarme rosso, quindi. Ma cosa rispondere a chi, legato alle credenze popolari, parla già di estate tropicale? Il fatto che dopo un inverno magari difficile dal punto di vista delle precipitazioni debba per forza arrivare un'estate calda non ha nessun fondamento scientifico, tantomeno siamo nella possibilità, con gli strumenti che abbiamo adesso, di dare indicazioni particolarmente attendibili sull'evoluzione della prossima stagione estiva. E se parliamo di falsi miti, non resta che sfatare il luogo comune per eccellenza, le mezze stagioni. Mi viene un po' da sorridere, perché nella realtà dei fatti queste esistono, e come, a volte sono più lunghe, a volte sono più contratte. L'unica cosa che possiamo dire è che il clima non ha certamente un'evoluzione che è paragonabile con la percezione e la memoria dell'uomo. Micaela Nasca, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è stato il maltempo a causare il rinvio del rientro dello shuttle Atlantis in Florida. La NASA infatti ha annunciato ufficialmente oggi il rinvio dell'atterraggio che inizialmente era previsto per il pomeriggio di oggi. E parliamo ancora di spazio, perché vi abbiamo dato notizia della prima donna italiana diventata astronauta, Samantha Cristoforetti, 32 anni. Gigi Donelli l'ha intervistata. Tenente Samantha, qui è il capitano Kirk, dall'Enterprise che le parla. È pronta a partire? Sono pronta, certamente. Non ho potuto fare a meno di fare questa battutaccia, già il nostro collega in regia mi guarda storto, però io so che lei è un'appassionata di Star Trek. Beh sì, sicuramente nella mia infanzia e adolescenza soprattutto sono stata una grande Trekkie, quindi non perdevo niente dell'universo di Star Trek. Bene, allora, tenente Cristoforetti, tenente, adesso, come dire, torniamo alla realtà da Star Trek. Innanzitutto complimenti. Grazie, però vorrei comunque sottolineare che insomma, su 8500 candidati penso che l'Agenzia Spaziale Europea si sia permessa di prendere 6 astronauti con un curriculum impeccabile. Non certo solamente io. Assolutamente, appunto 6 su 8000, che non è proprio un numero larghissimo. Pilota, ingegnere, un percorso che l'ha portata attraverso l'Europa, diciamo, come formazione e poi quindi nel mondo militare. Sì, sicuramente. Ed è una cosa, penso, a cui l'Agenzia Spaziale Europea nella selezione ha dato anche molta importanza, all'internazionalità del curriculum dei candidati, perché chiaramente lo sappiamo, l'esplorazione dello spazio è e sarà sempre più in futuro uno sforzo internazionale, quindi è fondamentale avere persone che abbiano l'abitudine e la dimestichezza a gestire il rapporto con culture magari diverse dalla propria, e quindi è una cosa a cui l'Agenzia ha prestato molta attenzione nella selezione, quindi sicuramente importante. Ho letto che ha studiato a Trento, a Bolzano, già un mondo aperto su altre culture. Beh, in realtà sono di origine trentina, quindi lì chiaramente non è che mi stessi muovendo molto, però già durante la scuola, io ho fatto il quarto anno di liceo come exchange student, come si dice, uno studente di scambio negli Stati Uniti tramite intercultura, e tra l'altro è una cosa che condivido anche, ne parlavamo proprio oggi con Luca, l'altro collega italiano che è stato selezionato, anche lui ha fatto questa esperienza da giovanissimo di fare un anno di scuola all'estero. La carriera di un astronauta può essere molto lunga, non voglio arrivare a citare, ma lo faccio, John Glenn, che è andato nello spazio l'ultima volta a 77 anni. È un buon auspicio, no? Anche per pensare a un investimento di lungo termine. Beh, io me lo auguro, però chiaramente l'orizzonte adesso è un attimino più a breve o medio termine. Mi piace sottolineare il fatto che per adesso siamo astronauti, diciamo, di nomina, ma non è altro, diciamo, che l'inizio di un percorso molto lungo, no? È un punto di arrivo in un certo senso, la realizzazione di un grande sogno, ma poi soltanto il punto di partenza di un altro lungo percorso che avrà le sue difficoltà e inizierà adesso a breve, durante l'estate o al più tardi all'inizio dell'autunno, con l'inizio dell'addestramento al centro addestramento astronauti a Colonia, un primo corso, diciamo, di 18 mesi che ci permetterà di essere astronauti oltre che di nomina anche come competenze e professionalità, e poi ci darà la possibilità di essere in seguito assegnati effettivamente delle missioni spaziali. Le missioni, diciamo, alle quali possiamo ambire nel medio periodo sono missioni di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, quindi missioni di 6 mesi in cui si svolge prevalentemente attività di ricerca nei laboratori che sono già presenti sulla stazione, tra cui il nostro laboratorio europeo Columbus, e tutta una serie anche di attività di ricerca e di sperimentazione volte a poi gettare le basi per una futura esplorazione al di là dell'orbita bassa, diciamo, terrestre. Ma siamo tutti molto consapevoli del fatto che al di là della visibilità che possiamo avere, in realtà non siamo altro che la punta di un iceberg, nel senso che dietro ad ogni missione spaziale ci sono veramente migliaia e migliaia di persone che ci mettono il loro talento, la loro passione, il loro cuore e l'anima per riuscire a realizzare quelle che sono, secondo me, le grandi imprese dell'umanità dei nostri tempi. Tenente, la ringrazio molto, in bocca al lupo. Creti, grazie a voi. Qual è lo stato dell'editoria italiana in questo momento di crisi? Se ne sta parlando al convegno Crescere fra le righe, organizzato dall'Osservatorio Permanente Giovani Editori a Borgo La Bagnaia, in provincia di Siena. Allora ci colleghiamo proprio con il convegno, dove si trova il direttore di Radio 24, Gianfranco Fabi. Sì, buongiorno. Stamattina è stato un esame abbastanza attento, approfondito dello stato dell'editoria in questo convegno, come hai detto, Crescere tra le righe, in cui 250 giovani, una parte, solo una parte di quelli che hanno partecipato all'iniziativa dell'Osservatorio degli Editori e del Quotidiano in Classe, stanno un po' stringendo alle corde i direttori dei giornali, gli editori, i presidenti delle fondazioni, le istituzioni, cercando di portare a galla, appunto, i problemi della stampa, ma più in generale i problemi della società. E allora cosa sta uscendo? Che l'editoria sicuramente è in crisi, è in difficoltà per una doppia crisi che è dovuta da una parte al calo della pubblicità, perché lo sappiamo tutti, la crisi economica sta colpendo particolarmente in maniera aspra e quindi la pubblicità ne risente in maniera forte, ma sta colpendo l'editoria anche un calo dei lettori dovuti all'avvento di nuovi mezzi, internet soprattutto, che stanno consumando un po' il tempo dei lettori, e quindi su questo fronte si sta dando la battaglia sul futuro dell'editoria. Bisogna dire che in linea di massima il futuro sembra comunque realisticamente positivo. Direttore, su questo fronte e sul fronte del futuro, che proposte stanno emergendo? Di questo ha parlato per esempio molto Giancarlo Ceruti, presidente del Sole 24 Ore, e ha messo in rilievo due termini essenziali: innovazione e intreccio. Innovazione vuol dire cercare nuove strade, cercare nuove potenzialità, puntare molto sulla qualità dell'informazione, puntare molto anche sulla potenzialità offerta appunto dall'intreccio tra i vari mezzi, quindi il giornale, quindi la radio, quindi il web, che sono un po' le caratteristiche del gruppo del Sole 24 Ore. In questo intreccio cercare di valorizzare al massimo, di dare valore all'informazione in modo che l'informazione possa essere apprezzata e soprattutto venduta e quindi anche pagata dagli utenti, in modo da tenere salde, solide le aziende editoriali. Salde e solide che, come ha sostenuto per esempio l'editore della stampa John Elkann, è un requisito fondamentale perché i giornalisti facciano bene la loro missione, cioè siano indipendenti dagli interessi particolari, indipendenti dagli interessi politici, indipendenti da qualunque altra forma di pressione sulla stampa. Quindi la solidità delle aziende editoriali è un punto fermo, questa solidità può essere raggiunta se le aziende editoriali sapranno garantire questo intreccio tra i nuovi mezzi e quindi dare una nuova vita a tutti i vari mezzi, appunto, sia la stampa, sia la carta stampata, sia il web, sia la radio. Grazie Gianfranco Fabi, direttore di Radio 24. Noi dai giornali passiamo invece al cinema. Sì, a 2 giorni dalla chiusura del Festival di Cannes, i critici cominciano a divertirsi con i pronostici. Tarantino ha deluso, Odiar in pole position. I Toto Palma più affidabili sono quelli di Screen Daily e Le Film Français, che come ogni anno stilano classifiche dei favoriti sulla base dei giudizi di critici internazionali il primo e solo francesi il secondo. Pare proprio che il più atteso alla vigilia, Inglourious Basterds, non abbia sconvolto i pronostici dei primi giorni. Quentin Tarantino, infatti, raccoglie in entrambi i casi un punteggio medio-basso. Nella rosa dei critici francesi entra invece il bel film del maestro Alain René, che diventa secondo in classifica insieme agli Abbracci spezzati di Pedro Almodovar. Saldamente in testa invece Jacques Audiard con Un profeta. Per i critici internazionali, conferma di Audiard e a un soffio il film della regista australiana Jane Campion, Bright Star. A seguire 3 film, Almodovar, Loach e finalmente il nostro Marco Bellocchio. A rimettere tutto in discussione potrebbe essere l'applauditissimo film di Xavier Giannoli oppure Il nastro bianco di Haneke. Qualche sorpresa su cui puntare? I film di Elia Suleiman, Gaspar Noé o Isabelle Coixet. Il verdetto domenica sera. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:49 minuti, 25 secondi, parliamo di ciclismo. Giro d'Italia, Dario Ceccarelli, allora che cosa prevede la tappa di oggi? Oggi c'è una tappa per velocisti. Dopo la cronometro delle Cinque Terre si va a Firenze, da Lido di Camaiore a Firenze, è proprio una tappa piatta che è proprio una resa dei conti tra Cavendish e Petacchi. A questo punto però la domanda è: ma che giro sarà? Qual è le prospettive dopo la cronometro che ha portato alla maglia rosa Menchov togliendola a Danilo Di Luca? E c'è una situazione strana, si potrebbe definire una barzelletta. C'è un russo, Menchov, c'è un americano, Leigh Palmer, e c'è Di Luca. E i primi due sono bravi a cronometro e anche fondisti. Di Luca invece è uno che ha possibilità anche negli arrivi rapidi, è uno più agile. Secondo me ce la può fare, perché finora Di Luca ha dimostrato di avere grande preparazione e grande concentrazione. Di sicuro Menchov è il candidato più probabile, però Di Luca può essere un osso duro fino alla cronometro finale di Roma. E ora il calcio, domenica la penultima di campionato, gare tutte in contemporanea, molti verdetti ancora da emettere. Farà molto caldo domenica pomeriggio, non solo perché il calcio d'inizio è fissato alle 15 e si prevedono temperature equatoriali un po' ovunque. Farà caldo perché la posta in palio è alta, su 2 campi forse arriveranno parole decisive per la zona salvezza. E allora partiamo da qui, visto che in alto il verdetto è già scritto e che in casa Inter, dopo le feste, si pensa soprattutto a trattenere Mourinho ed Ibrahimovic. Già retrocessa alla Regina, sembra tranquillo il Chievo, che nello spareggio thrilling con il Bologna ha la possibilità di salvarsi condannando proprio i rossoblù, mentre il Torino non può che battere il Genoa per sperare ancora. Quasi disperata la posizione del Lecce, che ha bisogno di 3 punti contro una Fiorentina che ormai ha nel mirino la Juve del terzo posto, che regala la Champions senza preliminari. Un'ipotesi che è diventata l'incubo della Juve, che si è liberata di Ranieri per dare la scossa e cerca a Siena la vittoria che manca da 2 mesi. Per l'esordio in panchina, Ciro Ferrara non avrà l'infortunato Del Piero, ma intanto incassa i complimenti del presidente Coboli Gigli. Sei stato scelto Ferrara perché è un ragazzo determinato, che conosce molto bene le regole della squadra, conosce bene la società, mi sembra che ci stia mettendo l'anima, anche se si trattasse soltanto di 2 partite, è una grande occasione per lui. Il Milan cerca la vittoria contro la Roma per festeggiare la matematica qualificazione alla Champions League e per concentrarsi sul futuro. Lunedì Galliani annuncerà il nome dell'erede di Ancelotti per la panchina. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. Un rapido riepilogo delle principali notizie di giornata. Ci sono germogli di ripresa, dice il centro studi di Confindustria. Epifani al governo, si completino le riforme avviate da Prodi. A Roma 4 casi di influenza fra gli studenti, 2 lucei verso la chiusura. Oltre 600 cariche di tritolo, ha abbattuto l'ecomostro dell'isola Palmaria davanti a Porto Venere. Riforma del Parlamento, fine a Berlusconi, si faccia pure un DDL di iniziativa popolare, ma deve passare dalle Camere. La trattativa di Fiat per Opel, il governatore della regione tedesca dell'Assia preferisce l'offerta di Magna. Ed è tutto per questa edizione di XL, curata e condotta da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. In regia Filippo Aureggi, al coordinamento Maria Piera Ceci. Il prossimo GR alle 15, XL torna lunedì alle 13. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.